America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, cominciamo con quello che è successo ieri al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 15-0 il voto, quindi assoluta maggioranza per cominciare il processo che porterà alla eliminazione completa delle sanzioni contro l'Iran. Sentiamo. Well, the UN Security Council and the European Union today both approving the nuclear agreement with Iran. Ecco, cominciamo col dire che naturalmente il voto è storico perché chiude, come dire, un periodo molto lungo in cui l'Iran era stato isolato dalla comunità internazionale, ma diciamo anche che questo voto non è piaciuto al Congresso americano. E qui parliamo sia di democratici che di repubblicani, perché secondo i parlamentari degli Stati Uniti questo voto ha creato i presupposti per eliminare le sanzioni contro l'Iran senza passare dal Congresso americano. Secondo la maggioranza repubblicana, ma anche secondo molti democratici, per esempio il senatore Dianne Feinstein della California, questo voto unanime è stato un attacco preventivo del presidente Barack Obama proprio per bypassare il Parlamento, che dovrà votare sull'accordo raggiunto a Vienna martedì scorso e ha un periodo abbastanza lungo, perché il Congresso dovrà votare entro 60 giorni. E vediamo come stanno le cose, perché se ci fosse una maggioranza semplice contro questo accordo, ricordiamo che i repubblicani sono molto contrari all'accordo che ha fatto il presidente Barack Obama, ecco, se ci fosse questo voto contro, la maggioranza è possibile perché i repubblicani controllano sia Camera che Senato. A quel punto Obama utilizzerà il suo diritto di veto e la speranza del presidente è che i democratici impediranno ai repubblicani di raggiungere la maggioranza dei 2/3 necessaria per sconfiggere il veto presidenziale. Mentre invece in prima battuta per andare al veto basterà una maggioranza semplice. Ecco, il problema è che molti democratici hanno espresso pubblicamente il loro disappunto per l'accordo e il voto potrebbe essere abbastanza incerto. Qual è il pericolo? Beh, in caso di un voto negativo anche dopo il veto è che alla fine resterà soltanto l'America con le sanzioni contro l'Iran, mentre invece tutti gli altri paesi, grazie al passaggio delle Nazioni Unite, potranno riprendere gli accordi commerciali, gli scambi commerciali, economici. L'Iran naturalmente potrà esportare petrolio dappertutto. Per questo il presidente Barack Obama sta facendo una campagna quasi forsennata per cercare di convincere il Parlamento a seguirlo. Sentiamolo. There is broad international consensus around this issue, not just among the international community, but also among experts in nuclear proliferation. Ecco, Obama qui sta cercando di dire ai suoi compagni, sia democratici che ai suoi oppositori, cioè ai repubblicani, quello che si rischia se non dovessero sottoscrivere l'accordo che gli Stati Uniti hanno firmato insieme agli altri paesi membri del Consiglio di Sicurezza, cioè che hanno il diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza, cioè le 5 potenze, quindi Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, oltre agli Stati Uniti, più la Germania. Senza questo accordo sul nucleare, dice Barack Obama, rischiamo più guerre in Medio Oriente, come dire, vi prenderete voi le vostre responsabilità. Questa intesa rende gli Stati Uniti e il mondo più sicuri perché rimanda, blocca per molti anni la possibilità che l'Iran entri in possesso di una bomba atomica e dunque siamo tutti più sicuri. Queste le parole di Obama, le aveva dette alcuni giorni fa. L'accordo prevede l'eliminazione delle sanzioni imposte contro l'Iran per le continue violazioni dei protocolli per la non proliferazione nucleare. Erano state sanzioni imposte nel corso di anni. In cambio, come sappiamo, Teheran congelerà per periodi di 10, 15, addirittura 25 anni, a seconda dei casi, alcuni dei suoi esperimenti nucleari, limiterà la produzione di uranio arricchito, darà accesso agli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale che potranno verificare il rispetto di ogni articolo dell'accordo. Il presidente Obama ha chiarito che la verifica è una garanzia chiave e che le sanzioni saranno reintrodotte immediatamente se dovesse esserci delle violazioni degli accordi da parte di Teheran. È stato poi il segretario di Stato John Kerry a spiegare al Congresso che il voto dell'ONU non c'è stato per volontà americana, ma perché è stato concordato da tutti e gli USA da soli non potevano impedirlo. E dunque sentiamo Kerry. If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this, then we have no inspections, we have no ability to Ecco, Kerry dice, se il Congresso non approvasse questo accordo, se il Congresso lo bocciasse, non ci sarebbero ispezioni, non ci sarebbero sanzioni, non ci sarebbe la possibilità di negoziare un altro accordo. L'Iran non tornerà al tavolo dei negoziati. E per il voto all'ONU ha detto, è stato un modo per dare a questo accordo il respiro multilaterale che ha consentito di chiudere il negoziato con un successo. Però, come vi dicevo, al Congresso c'è resistenza. Perché? Beh, perché l'impressione di buona parte dei parlamentari e anche, devo dire, di molti influenti personaggi americani, anche nel mondo degli affari con cui ho parlato nei giorni scorsi, è che l'accordo abbia avvantaggiato soprattutto l'Iran, che gli Stati Uniti, invece di negoziare da una posizione di forza, come potevano, un accordo vantaggioso, hanno ceduto su molti punti chiave pur di raggiungere un compromesso che non tutela completamente gli interessi di Washington né ovviamente quelli degli alleati, perché abbiamo visto le reazioni soprattutto in Israele e in Arabia Saudita. Quali sono le preoccupazioni del Congresso? Per esempio, si dà per certo che senza sanzioni e con la ripresa dell'esportazione di petrolio, l'Iran potrà avere accesso a fondi per centinaia di miliardi di dollari che consentiranno a Teheran di rafforzare la sua influenza nella regione, sulla Siria, sull'Iraq, sullo Yemen, su altri paesi del Golfo Persico. E questo, secondo i parlamentari, aumenterà invece di diminuire l'instabilità della regione. E poi l'ultima richiesta iraniana, quella di togliere l'embargo alla vendita di armi convenzionali, che è stata accettata pur di chiudere. Vi è la certezza fra molti parlamentari che a questo punto l'Arabia Saudita cercherà di approvvigionarsi a sua volta di una bomba atomica, che poi tra l'altro molti dicono l'ha già comprata dal Pakistan. E una fonte autorevole con cui ho parlato mi ha detto, cioè, l'accordo è ottimo, un accordo meraviglioso per l'Iran, non per gli Stati Uniti. L'idea di questo signore che si sarebbe dovuto legare alle concessioni sulle sanzioni a garanzie per la Siria, per lo Yemen, per l'interruzione del finanziamento a organizzazioni terroristiche, e lui mi ha detto, dice, non abbiamo avuto nulla di tutto questo, anzi, come ricorderete, l'Ayatollah Khamenei ha detto il giorno dopo l'accordo che l'America resta un nemico e non sono stati neppure liberati 4 prigionieri americani accusati di spionaggio. Ecco, da un punto di vista pratico, il voto di ieri è stato voluto da tutti i paesi che hanno partecipato al negoziato, proprio per evitare in effetti problemi da un possibile voto negativo del Parlamento americano. Però c'è stato un contentino, perché il documento approvato ieri entrerà in vigore fra 90 giorni. Questo consentirà al Parlamento USA di votare entro i 60 giorni previsti, senza che in teoria l'ONU abbia scavalcato questa decisione americana. Però comunque la decisione americana in Congresso vada, dopo 90 giorni la risoluzione dell'ONU sarà applicata. Qual è la scommessa di Obama, della sua amministrazione? È una scommessa che prevale sulle preoccupazioni dei parlamentari americani, e cioè che il governo moderato a Teheran potrà rafforzarsi rispetto agli estremisti grazie a questo nuovo flusso di capitali, a una maggiore apertura, e che da quei 15 anni avremo un Iran molto diverso, sia in termini di apertura nei confronti dell'Occidente che di contributo alla stabilità della regione. Questa è la speranza, e ci uniamo al carro di coloro che cercano di essere ottimisti piuttosto che pessimisti. I am encouraged that we have a first-rate embassy team in Cuba, led by our chargé, Ambassador Jeff De Laurentiis. Ecco, non abbiamo fatto storia con il voto all'ONU, che avete sentito di nuovo John Kerry, conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri cubano Bruno Eduardo Enrique Pariglia. Kerry dice, questo è un giorno storico in cui vengono rimosse le barriere, non elimina le differenze che separano i nostri governi, ma segna un fatto, la guerra fredda è finita per davvero. Cosa è successo ieri? È stato il primo giorno dell'apertura dell'ambasciata cubana a Washington dopo 54 anni dalla sua chiusura. Kerry il prossimo 14 agosto sarà a La Habana per la cerimonia di apertura dell'ambasciata americana, e questo appartiene a questa atmosfera generale del disgelo, un disgelo fra paesi che restano con profonde differenze ma che cercano il dialogo. Speriamo che la strada sia quella buona una volta per tutte. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi restiamo sul tema cubano, e quindi, visto che è aperta l'ambasciata cubana a Washington, Buena Vista Social Club, Chan Chan. Cedro y pa. Marina, como sacudí el jibe, chan chan le daba pena. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.